Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati cari amici radioascoltatori per un'ennesima puntata di Fuori di Noi. Ahimè, i microfoni, per un motivo, un impegno lavorativo, ci sono solo io, Cristian di Noi Treviso, mentre Anna Zampieri di Azione Cattolica appunto è impegnata per motivi di lavoro, quindi la ritroveremo, la risentiremo la prossima settimana per l'ultima puntata, almeno per quanto riguarda questa stagione, della trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Sempre comunque presente, sempre affidabile e ovviamente nostro, diciamo coprotagonista alla regia Eddie Daici. Puntata anche questa in cui faremo qualche riflessione sulla figura dell'animatore, animatore di oratorio, animatore di Grest, che sta appunto iniziando il proprio lavoro proprio in queste settimane, perché abbiamo sentito già nella scorsa puntata, intervistando alcuni amici di Abbazia Pisani e Borghetto, alcuni animatori che si erano ritrovati per fare un mini corso di formazione, circa 120 ragazzi di prima, di seconda e di terza superiore, animati e seguiti da Don Daniele Giacomin e Don Paolo Barbisan. Abbiamo raccontato e abbiamo un po' sentito dalle loro parole cosa vuol dire essere animatore, quali qualità deve avere, e noi attraverso la storia che è in tutte le parrocchie, che si chiama quest'anno Stella, cercheremo un po' di evidenziare alcune caratteristiche peculiari dell'animatore in generale. Abbiamo detto che l'esperienza di animare un Grest è un'esperienza molto positiva, arricchente per tutti, ma potrebbe essere anche un'occasione per fare poi un servizio all'interno della parrocchia anche durante il periodo invernale. Se volete mandarci un'email a fuoridinoi@libero.it, basta appunto cliccare e mandare una richiesta, una fotografia, magari anche del vostro Grest o delle vostre attività come oratori. Se volete invece seguire le puntate di Fuori di Noi, che mandiamo in onda ogni settimana al sabato alle 14 e alla domenica alle 12:30, basta andare sul sito della radio www.bluradioveneto.it e andare sul podcast programmi. Lì potrete risentire la puntata che abbiamo mandato in onda e avere anche un piccolo riassunto dei protagonisti della puntata stessa. Proprio mentre vi stavo appunto per iniziare questa puntata, ho rivisto attraverso un CD che avevamo preparato qualche anno fa tutte le puntate di Fuori di Noi, perché appunto la trasmissione che stiamo mandando in onda da diversi anni, prima attraverso Radio Vita e poi con Blu Radio Veneto, è frutto di una collaborazione con Noi Padova, Noi Venezia e altri Noi territoriali. Perché? Perché noi è la grande famiglia che riunisce e coordina i nostri circoli, oratori o padronati. Sono più di 1300 sparsi in tutta Italia per circa 300-350.000 tesserati tra ragazzi, adulti e anziani. Quindi una grande famiglia che vuole in qualche maniera comunicare quello che di bello si fa. E mentre riguardavo le puntate degli anni scorsi, vedevo anche tante persone che ci hanno accompagnato in questo tour negli oratori, in queste interviste, in questi contatti, e i tanti progetti e le tante parole che si sono dette. Parole che non sono vuote, perché al di là di questi discorsi ci sono appunto delle persone che quotidianamente e nei fine settimana, soprattutto nei fine settimana, danno veramente del tempo libero a favore di questa causa, che è la causa appunto degli oratori. Ma mi pare bello anche sottolineare una frase che diceva Don Fabio Mazziuzzi, presidente di Noi Venezia. Diceva: non scappate ogni weekend, ma mettete radici a caso in parrocchia. Cioè diceva appunto che il weekend non è soltanto il tempo per scaricare magari le fatiche, le delusioni patite durante la settimana, ma è anche un'occasione per ricaricarsi. E come ci si fa a ricaricare? Mettendo radici, cioè non essendo, diciamo, soggetti passivi di una comunità, ma protagonisti. Dove si può essere protagonisti? Don Fabio Mazziuzzi, presidente di Noi Venezia, dice: proprio all'interno della propria parrocchia, all'interno della propria comunità, all'interno del proprio padronato, del proprio oratorio. Quindi questo è un invito che rivolgiamo a tutti i nostri radioascoltatori che magari hanno un oratorio all'interno del proprio territorio, di affacciarsi alla finestra di questo ambiente e magari dare una propria disponibilità per essere protagonisti e per dare un contributo efficace, concreto, diciamo, all'intera società, alla società appunto in cui si vive, in cui ci si insedia. Ma adesso, dopo tante parole, iniziamo subito con un primo brano musicale e poi parliamo appunto delle qualità che dovrebbe avere un animatore, animatore a 360 gradi, non soltanto quello del Grest. E quindi dedichiamo a tutti i nostri amici volontari che rendono vivo il proprio oratorio l'ultimo singolo di Laura Pausini, Le cose che non mi aspetto. Sono stata nel centro di una tempesta, col volume distorto che picchia in testa, con i pensieri in fumo, fuoco di un incendio tutto mio. E ti trovo per caso che parli al mare, anche tu avevi un sogno da riparare. Tu non mi dire niente, mi fermo a farti compagnia. Posso soltanto guardare il punto dove stai guardando tu, e posso solo pensare che ho già vinto se convinco te che sei speciale. Come le cose che non mi aspetto, quello che sei. Posso soltanto tornare dove ancora stai aspettando tu, e quel che ho avuto restituire e lasciarlo a te che sei speciale. Adesso, appunto, dopo il primo brano musicale, mi è arrivato anche un ciupa ciupa. Io spero, appunto, anche per voi che avete la possibilità, che abbiate avuto la possibilità anche di gustarvi, nonostante tutto questo caldo, questa estate super torrida che sta arrivando. Io intanto, appunto, mi leco anche un ciupa ciupa, dolcetto caratteristico dell'estate. Grazie Mirko che me l'hai portato. Ma iniziamo subito allora con le prime qualità, le prime caratteristiche che dovrebbero avere, appunto, gli animatori. Facciamo questo piccolo vademecum in pochi minuti. Allora, immaginiamo di avere uno zaino. L'animatore di solito ce l'ha sempre, perché o va di qua o vanno in gita o si spostano. Allora dovrebbe trovare posto in questo zaino un vaso. Perché un vaso? Cerchiamo di abbinare le qualità a degli oggetti, perché pensate un attimino a come viene fatto un vaso. Dalla creta, appunto, il vasaio cerca di trarne un capolavoro, lo modifica, lo manipola, e questo sta per dire, appunto, che l'animatore, per essere tale, per avere, diciamo, il patentino di animatore, deve pensare alla formazione, una formazione che deve essere culturale, anche di metodo, settoriale o specialistica, cioè in qualche maniera deve trovare spazio, appunto, per aumentare il suo bagaglio anche culturale, perché per esempio potrebbe incontrare dei ragazzini che vengono da altre culture o da altri paesi, quindi deve mettersi in relazione anche con questi ragazzi. Quindi prima attenzione, formazione, uno spazio dedicato alla formazione oggi più che mai. Secondo oggetto, deve trovare posto nel suo zaino anche per il Vangelo, perché l'animatore, questo tante volte è un piccolo equivoco, non è l'animatore del villaggio turistico, è un animatore di grande Agreste, di oratorio, e in qualche maniera viene spinto, diciamo, a fare questo, non per una passione così calata dall'alto o per caso, potrebbe esserlo, potrebbe sembrare, ma non è così. Svolge appunto il suo servizio a nome e per conto di una parrocchia, di una comunità, e a nome e per conto appunto anche di un Vangelo, di una figura che è quella di Gesù, che in qualche maniera ha spinto lui a dedicarsi appunto agli altri, soprattutto nel periodo estivo, ma anche in quello invernale. Quindi è importante però crescere e capire chi era e chi è Gesù e camminare secondo appunto i suoi insegnamenti. Quindi il Vangelo è, diciamo, il mezzo che Gesù ci ha lasciato per conoscerlo, per comprenderlo e anche per suggerirci appunto cosa fare in qualsiasi situazione ci possiamo venire a trovare. Quindi ogni animatore sa anche, dovrebbe sapere, che anche l'immagine di Gesù nel suo mettersi a servizio dei più piccoli, importante. Terzo oggetto, in questo ipotetico zaino mettiamo un puzzle. Che cosa è un puzzle? Sapete, tutte quelle tesserine che si montano per fare un disegno completo. E qua sottintende un'altra qualità. Allora, formazione, amicizia con Gesù e conoscenza, quindi in qualche maniera fede. Terzo elemento, collaborazione. L'animatore non lavora mai in solitudine, ma sempre in compagnia di qualcuno. Non è un battitore libero che non ascolta gli altri, ma deve lavorare insieme per offrire il meglio ai ragazzi che si trova intorno. Altro elemento importante, un progetto, ci deve essere un progetto, e avere un progetto per iniziare un Grest, per offrire una proposta a tutti i nostri ragazzi che affollano i nostri ambienti, i nostri oratori, ci deve essere sotto anche un pensiero, un'idea, e quindi bisogna programmare e verificare. Quindi collaborazione, programmare, verificare, formazione, Gesù. Cosa vuol dire programmare e verificare? L'animatore che vuole lasciare un segno, l'animazione che vuole lasciare un qualcosa al ragazzo e alle persone che incontra, non può improvvisare. Cerca la strada, cerca attività, atteggiamenti, comportamenti, proposte adatte a far crescere, che poi andranno verificate. Tante volte si sbaglia, ma l'importante è programmare e poi soprattutto verificare cosa è andato bene e cosa invece è andato storto. L'animatore quindi deve anche imparare non solo a collaborare, ma anche a riflettere insieme e anche a criticare sempre in maniera costruttiva, non solo per il gusto di appunto dire qualcosa di contrario rispetto a qualcun altro. Ultimo pensiero, cioè ultimo aggettivo, qualità che deve avere l'animatore, e dopo magari andiamo con un altro brano musicale o con un'altra notizia, è un lucchetto, un oggetto importante che va tenuto nello zaino, un lucchetto che serve appunto per chiudere, no? Ma noi lo interpretiamo in un'altra, diciamo, dimensione, cioè l'animatore deve essere perseverante, robusto. Perseverante vuol dire mettersi anche in gioco su tutto, anche magari su le idee o sui pensieri o sulle strategie che lui ha pensato, lui ha preparato, perché tante volte magari lo sguardo di altri, il pensiero di altri può andare più avanti, può essere più efficace del mio. Ma l'importante è essere anche perseveranti, e vuol dire partecipare agli incontri, vuol dire essere costante fondamentalmente, non occasionale, vuol dire essere anche puntuale nei propri impegni, anche della mattina o per esempio qualcuno ci chiede una disponibilità, anche se mi costa fatica, lo faccio lo stesso, anche se è sempre quella, lo faccio lo stesso. Presenti quindi all'impegno assunto come animatore. Animatore non si nasce, si diventa con la costanza. E qual è il contrario ovviamente della perseveranza? L'instabilità, la provvisorietà, la leggerezza. L'educazione è un fatto soprattutto di perseveranza, di costanza. I nostri genitori non sono genitori perché ci dicono, diciamo, delle cose belle, eccetera, ma perché quotidianamente continuano a farlo fondamentalmente. E questa è una caratteristica che penso sia una delle più difficili oggi da conquistare e da far imparare appunto ai nostri ragazzi, soprattutto ai giovani animatori, ma non solo. Quindi ecco, questi sono 5 qualità, ne vedremo magari altre 5 nel prossimo blocco, dopo una pausa musicale. Ma voglio soltanto ricordare a tutti gli animatori che ci stanno ascoltando, a tutti i responsabili di oratorio, che è andata bene, molto bene la festa degli animatori all'acquestato di Noale sabato scorso, con più di 1000 ragazzi che hanno partecipato ai tornei, si sono divertiti in semplicità e in fraternità. E noi però ci stiamo già spostando alla festa diocesana del Grest di Villa di Reali a Dosson di Casier il 6 luglio, e là ci saranno altri 5-6 mila ragazzi che aspettano appunto questo evento. Prossima canzone in programma, City of Blinded Lights, YouTube. Che abbiamo appena ascoltato, La città dalle luci accecanti, del gruppo irlandese degli U2, c'era una frase che è ricorrente: puoi vedere ancora la bellezza che sta dentro di te. Ecco, forse l'animatore, parlando appunto delle ultime 5 qualità che deve avere, ha come obiettivo finale proprio questa, cioè di far vedere all'animato, cioè al bambino, al ragazzo, la bellezza che è dentro di lui. Perché non diamo per scontato che questi bambini, quando arrivano al Grest, si sentono tutti felici, contenti e si amino tanto. Purtroppo questo non si verifica così spesso come noi crediamo. Quindi abbiamo bisogno di tirar fuori il meglio di noi per far vedere il meglio di loro. Ma noi continuiamo a raccontare alcune delle qualità, diciamo, che abbiamo cercato di riassumere anche nella presentazione del sussidio di quest'anno, appunto Stella, che ha come protagonista la figura di Esther e che ha come tema, uno dei temi principali, la bellezza. Andiamo avanti, quindi mettiamo nel nostro ipotetico zaino, cari animatori, cari ascoltatori, anche un bersaglio, sapete, quelli che si usano per tirare le freccette, perché nella vita dell'animatore vogliamo dire chi sta al centro. Sta al centro l'animatore, la sua simpatia, il suo divertimento, la sua creatività, anche ma soprattutto deve stare al centro il ragazzo, il bene del bambino che ci è affidato, il bambino o la bambina che ci vengono affidati dai genitori e dalla comunità parrocchiale per cui noi siamo mandati a fare l'animatore. La cosa più importante quindi è il loro bene, la loro felicità, no? La loro anche bisogna aver cura anche dei risvolti psicologici che la nostra figura può avere nei loro confronti. Se l'animazione viene vissuta in questa maniera, cioè ponendo al centro, ripeto ancora, il bambino, l'animato, anche l'animatore riceve un bene grande, perché perde il suo egocentrismo, cioè praticamente il fatto che lui stia al centro. Noi ci spostiamo verso l'altro, spostiamo la nostra persona e il nostro, diciamo, i nostri interessi verso qualcuno, quindi ci doniamo completamente. Quindi attenzione, l'animatore deve mettere sempre al centro il ragazzo, non se stesso. Un'altra qualità, un paio di occhiali servono sempre, forse è abbastanza semplice anche da capire perché l'animatore deve anche guardare lontano, deve osservare, deve essere presente ma non insistente, però deve sempre avere come obiettivo, come attenzione appunto il bambino o i bambini, anche durante il gioco, durante i laboratori, durante il momento della preghiera. Deve sfruttare, saper sfruttare anche ogni potenzialità educativa, quindi se qualcosa non va deve sempre trovare una soluzione di ripiego. Se qualche gioco non funziona deve trovare la maniera perché questo gioco possa in qualche maniera riattivarsi, rinnovarsi. Se qualche bambino non vuole giocare non può lasciarlo ai maghi, deve prendere questo bambino e cercare di reinserirlo. Come? Con creatività, originalità, con fantasia, magari parlandoci assieme, entrando in relazione con questa persona, con questo bambino. E quindi l'animatore deve avere occhi che non sono soltanto questi qui che abbiamo appunto presenti nel nostro viso, ma anche quelli che idealmente dovremmo avere nel nostro cuore. Deve avere degli occhi attenti a tutti i comportamenti e anche a tutti gli atteggiamenti che possono assumere gli animati. Dietro questi atteggiamenti si possono anche nascondere certe situazioni un po' difficili, un po' delicate, che l'animatore magari deve affrontare in qualche maniera. Deve in qualche maniera anche sottolineare al responsabile di turno, che potrebbe essere l'organizzatore del Grest o il parroco, perché insieme famiglia, animatori e parrocchie e comunità, noi insieme e solo insieme educhiamo un bambino e aiutiamo un bambino. Ultimi tre, diciamo tre doni che deve avere l'animatore. Parliamo proprio di doni, infatti nel nostro zainetto dovremmo mettere un regalo, proprio quelli con i bei pacchettini, i bei nastrini. Perché? Perché fondamentalmente per fare animazione ci deve essere passione. Se c'è passione vuol dire che ci deve essere la gioia. Non dobbiamo essere tristi. L'animatore triste non è un animatore. L'animatore triste non dà gioia al bambino e non dà gioia nemmeno a se stesso. L'animatore è colui che ovviamente regala delle occasioni e delle esperienze di simpatia, di fraternità, di vicinanza, di affetto. L'animatore, se però non ha dentro di sé la gioia, non può nemmeno comunicarla. Quindi dobbiamo essere veramente un regalo per i nostri animati. Un altro elemento, una radiolina, quelle che ci servono anche adesso per ascoltare le partite, magari qualcuno non può vedere la televisione, oppure che abbiamo nei nostri telefonini. La radiolina perché? Perché deve ovviamente anche sapersi sintonizzare sulle frequenze di questo ragazzino. Cioè, cosa vuol dire? Che l'animato tante volte deve essere ascoltato, ma noi dobbiamo farci ascoltare, dobbiamo quindi aprire quella porta che magari è anche un po' chiusa per entrare in confidenza, entrare in rapporto con questo animato. L'animatore deve riuscire a comunicare ovviamente con il ragazzo di cui è responsabile e deve comunicargli l'affetto, deve comunicargli anche l'importanza di trovarsi in un luogo, in un ambiente dove tutti cerchiamo di essere famiglia, non per ottenere qualcosa, né nemmeno per una gratificazione personale, ma perché vuole comunicargli che gli vuole bene. Vuole comunicargli che gli vuole bene. E come gli vuole bene? Così com'è, non così come dovrebbe essere, così come sarebbe bello che fosse, ma perché gli vuole bene così com'è, senza condizioni. Ultima qualità, e conclude, ultime due qualità adesso appunto importanti anche queste, un orologio. Dobbiamo trovare posto nel nostro zainetto per un orologio, perché bisogna anche stare insieme con i ragazzi volentieri, senza avere la fretta di dire mancano 5 minuti, mancano 6 minuti. Quando si fa animazione, lo sanno bene i nostri volontari anche adulti, l'orologio conta poco. Certo, abbiamo tanti impegni, certo si possono fare anche tre cose in 10 minuti piuttosto che una. Però quando si parla di educazione, e ripeto, ritorniamo sempre ai nostri genitori, i genitori non contano, diciamo, il tempo che passano con noi con il cronometro, ma tante volte perdono, hanno proprio questa, diciamo, questo desiderio, hanno voglia di perdere tempo per noi, perché sanno che l'educazione non è una cosa che si può misurare o quantificare, si dà e basta, si dà gratuitamente, si dà senza misura e senza nessun limite. Quindi diciamo che l'occasione di perdere tempo può portarci a scoprire qualcosa del nostro animato e anche di noi stessi. Diamoci tempo e diamo tempo agli altri senza misura. Dirlo appunto in questo periodo, dirlo in questa società magari può essere una forma retorica, può essere una banalità, ma credo che sia importante trovare il tempo e ritagliarci più spazio possibile, e perdere tempo per gli altri non è mai tempo perso. Ultima qualità: nel nostro zaino bisogna trovare degli anelli, trovare posto due anelli. Perché? Perché l'animatore deve saper condividere, deve aderire con passione agli interessi dei ragazzi, ma deve anche partecipare emotivamente alle gioie di questo ragazzo. Per esempio, quando si fa un laboratorio, tante volte mi è capitato come animatore di trovarmi con un ragazzo che ha poca manualità, che non sa attaccare nemmeno un pezzo di carta su un altro pezzo di carta, o lo fa in maniera un po' improvvisata. Dobbiamo cercare di condividere e di raggiungere insieme con il ragazzo la soddisfazione, anche se è piccola, di riuscire a fare qualcosa insieme, e quindi partecipare, dare soddisfazioni, complimentarci e dire magari anche tante volte, insegnare al bambino e dire noi stessi tante volte grazie. Ultima cosa, visto che siamo in tema, ci sono anche gli europei di mezzo, ci vuole un pallone, signori, perché il gioco è uno dei sistemi educativi più efficaci del mondo. Il gioco in sé contiene delle regole che tutti devono rispettare. All'interno del Grest ci sono delle regole che noi dobbiamo insegnare a tutti di rispettare, indipendentemente dalla provenienza, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle nostre simpatie o antipatie. Il pallone, quindi, giocare con gusto, far giocare e abituare tutti alle regole, e soprattutto abituare tutti quindi anche a capire che quando si violano delle regole ci sono delle responsabilità, dei penalty, dei cartellini gialli o dei cartellini rossi, che sono fondamentali per una buona, sana educazione. Io adesso ho chiuso perché siamo addirittura d'arrivo anche per questa puntata di Fuori di Noi. Ringraziamo tanto sempre Edi Daici alla regia. Anna Zampieri la ritroveremo nell'ultima puntata la settimana prossima, sempre il sabato alle 14 e domenica alle 12.30, sempre su Blu Radio Veneto con Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Buon Grest a tutti, alla prossima, ciao a tutti! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.